Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi, buon lunedì, bentrovati. Oggi la nostra trasmissione la dovete usare come un momento di ricreazione. Sì, proprio come quelli che vivevate a scuola. Suonava il campanello e si rinasceva all'improvviso dalla fatica di stare sedute nei banchi, dal non poter tenere insieme testa e corpo, dall'essere lì in silenzio e concentrati. Magari fuori la vita era piena di cose da farci fare, noi vorremmo essere da un'altra parte. Ecco, quel campanello della ricreazione ci permette di tornare nuovi a noi stessi. E noi oggi di ricreazione vogliamo parlare perché abbiamo qui in studio a fianco a noi una vera esperta, direi la regina della ricreazione, almeno in questo periodo, perché ha scelto questo termine per intitolare il suo nuovo magnifico progetto discografico. Chi è? Voi l'avrete già indovinata, ma io voglio introdurvela con un breve estratto del suo successo che abbiamo cantato tutti quest'estate e che tuttora stiamo cantando. Le prime due nasconderò dentro una pagina e la terza scriverò vetri sporchissimi di un'auto blu, blu come i tuoi occhi. Eccola qui con noi in studio, Malika Ayan, ciao! Buongiorno! Senti, Malika, io l'ho detto, la regina della ricreazione, ma lasciamelo dire, tu sei ti trovo regale a prescindere, e cercando un aggettivo capace di descriverti, io direi sontuosa. Ti piace? Accidenti. Iniziamo subito alla grande. Ok, già lunedì si raddrizza. Sì. Ti riconosci? Allora, a proposito di ricreazione di cui parleremo oggi, abbiamo qui insieme a noi il nostro amico Alberto Pellai, professor Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta che ci aiuta spesso nei percorsi dove dobbiamo tenere insieme tanti pezzi diversi, che tra l'altro ha ascoltato dall'inizio alla fine il tuo CD, e quindi preparati perché te ne fornirà anche una lettura tutta psicologica. Intanto Alberto, grazie e benvenuto. Ciao Nicoletta, buongiorno, sono proprio contento di essere qui perché sai che Malika è una delle mie preferite. La ricreazione, partiamo dalla parola, in una prospettiva di benessere, come potremmo intenderla e che genere di ricreazione offre al suo ascoltatore Malika? Ma io dico che intanto è una ricreazione proprio che tiene insieme tutto te stesso, nel senso che è proprio un CD testa e pancia, quello di Malika, dove hai tutto un mondo che si accende, sono emozioni fortissime, e poi pian piano nella seconda parte rientri dentro ad un percorso dove la testa prende pian piano il sopravvento e ti dice: ecco, adesso domina un po' tutto quel fuoco, tutto quel vulcano che hai fatto esplodere nella prima parte. Quindi una ricreazione perfetta, perché è un momento di incontro tra parti diverse di te, ma rilanciamo a lei adesso e proviamo a vedere se c'è davvero questo mondo testa e pancia. Ecco, perché hai scelto questo titolo per il tuo nuovo progetto e quanto questa parola descrive bene la tua musica di oggi, quanto invece è, e lo metto tra virgolette, incorporata nel tuo percorso di vita? Allora, dunque per iniziare, il titolo me l'ha suggerito Caterina Caselli perché io non ero in grado di trovare un aggettivo o una parola che potesse sintetizzare quello che ha detto Alberto, perché nessuno aveva mai colto così bene, quello che voleva essere l'album. A volte pensavo anzi di non... cioè di percepirlo solo io in questo modo, e così costruito sugli incastri delle parti di noi. E quanto appunto al titolo, effettivamente voleva essere un modo per raccontare sia il divertimento e lo svago che è stato realizzarlo, riparto da capo. Sì, ricreiamoci. Mi sento così improvvisamente investita di una serietà che non che di solito non mi attribuisco, che ecco, ok, ricominciando da capo. Ricreazione, insomma, perché da una parte avevo voglia di rimettere mano a tutto quello che avevo imparato fino a questo momento, per cui il terzo album per forza richiede un minimo di consapevolezza in più, per cui non si può altro che proseguire e migliorare se non lavorando su se stessi. E contemporaneamente è stato bello poter lavorare con delle persone che mi fanno stare molto bene, per cui appunto, compagni di ricreazione. Esattamente. E Alberto, questo termine noi lo possiamo usare in due diverse accezioni: riprogrammarsi da capo, affrontare cambiamenti e innovazioni, come diceva la nostra amica, oppure rigenerarsi, un po' come i bambini che entrano nell'intervallo della mattina scolastica. Se tu ci pensi, è proprio una di quelle parole che tu puoi mettere come una sorta di intervallo, no? Una pausa tra un prima e un dopo, facciamo una ricreazione, tu ti fermi un po', tiri un po' il fiato, riacquisti un equilibrio. Ma se entri dentro alla parola, c'è questa cosa del trattino crearsi, e a quel punto vuol dire proprio rigenerarsi, cioè provare a identificare cose di te che magari non sapevi che c'erano, non c'erano prima, cose di te che scopri esattamente dopo che è finita la tua ricreazione, e devo dire molto affine anche un po' a quello che scopri nel CD di Malika, perché per preparare la puntata abbiamo sentito i precedenti CD, poi abbiamo sentito questo, in questo ci entri lentamente, poi più ci entri più prende forma come progetto a sé, ma prende forma pian piano anche dentro di te, perché tocca passaggi diversi probabilmente della vita di ciascuno di noi. E allora un invito ai nostri amici, ai tuoi fan che ci seguono da casa: naturalmente potete intervenire in diretta 800 24 00 24, potete scriverci al 349 238 6666, seguirci su Facebook e su Twitter, e provate a raccontarci, a raccontare a Malika qual è il vostro momento di ricreazione e di rigenerazione preferito, cosa fate voi per staccare e poi ricominciare, per un po' rivalutare quello che avete fatto e reinventarvelo con un nuovo passo, una nuova atmosfera, perché sceglieremo, anzi la nostra regina della ricreazione sceglierà il progetto di ricreazione più interessante, più stimolante, più ricreativo, per assegnare il suo CD naturalmente autografato. Mi allargo? Certo, assolutamente, e inoltre mi riprometto di provare ad applicarlo al mio quotidiano, il progetto di ricreazione. Questo è assolutamente fondamentale, quello che cerchiamo un po' di fare anche noi qua, suggerendo dei consigli di benessere, Alberto. Anche perché rigenerarsi, ricrearsi vuol dire sperimentare quello con cui non hai abitudine, con cui che per te è completamente nuovo, quindi affidarsi a qualcun altro che ti passa un piccolo segreto che lo fa stare bene e che ti permette perciò di rigenerarti. Morsetto dopo morsetto, pezzetto dopo pezzetto. Allora iniziamo a un assaggio del nuovo album di Malika. Se nel mio stomaco come uno spiffero puoi farmi in pezzi senza che quasi riesca a sentirlo. Non lascerò che se il senno a decidere ciò per perdere, stai con me. Grovigli è una parola che ti sta molto cara, che entra e rientra nella tua carriera tante volte, ma una parola che ha a che fare anche con un'arte che tu ami in modo molto particolare, il cinema. Ci spieghi perché? Grovigli è un brano che io ho composto quando stavamo realizzando l'album Grovigli. E poi durante appunto le registrazioni è arrivato Paolo Virzì, che invece mi ha proposto di cantare un brano che io non conoscevo, ma che mi ha portato tantissime cose belle, che è la prima cosa bella. Per cui Grovigli l'ho tenuta da parte, Grovigli il brano l'ho tenuta da parte, aspettando insomma un pretesto utile, e così è arrivato un altro film che invece si intitola Tutti i rumori del mare, e dove proprio perché si parla, proprio perché narra la volontà di una persona di annientare la sua identità e i suoi sentimenti, sembrava il brano adatto insomma a contornare questa vicenda, e per cui ecco che Grovigli è diventato una title track per insomma ormai sono una cantante da titoli di coda più che da discografia tradizionale, e io sono molto felice anche perché ho appena partecipato al Festival d'Annecy e ha vinto il premio speciale della giuria, e quindi facciamo questi piccoli passi verso l'esterno. E direi che credo che proprio il cinema sia forse l'arte che poi dopo la musica ti veste meglio, perché credo che sia pieno di suggestioni anche cinematografiche il tuo CD. Lo vedi scorrere e ti sembra di vedere tante scene diverse di un film. Per te il cinema che cos'è, al di là del fatto che è anche una questione di famiglia? Ma il cinema è proprio per quello che dicevi, è fondamentale che la musica evochi delle immagini, o meglio che evochi delle sensazioni, e nel nostro modo di percepire il mondo c'è anche l'immagine, no? E per cui io volevo raccontare 12 scene di una possibile storia d'amore, no? Proprio perché tutti ci siamo trovati a cascarci dentro. Per fortuna. Esatto. È un argomento talmente comune a tutti che a quel punto la cosa divertente, nel momento in cui ho scelto l'argomento, la cosa più interessante e stimolante era cercare di raccontare tutto dal punto di vista di chi prova i sentimenti e non invece, insomma, cercando di descrivere che cos'è un sentimento. Ho pensato a 12 Molly Bloom in momenti differenti, quindi proprio in preda a un sentimento tanto da non potersene liberare, e per cui sì, insomma, diciamo che tutta la memoria di film visti o di libri letti sono andati a infierire sulla mia sensibilità portando a questi brani. A proposito, Alberto, il cinema è un'occasione di ricreazione per eccellenza, tanto che voi psicoterapeuti a volte guidate proprio i vostri pazienti in veri e propri percorsi di cineterapia. L'abbiamo fatto anche nel libro che abbiamo scritto insieme, sì, Guida al perché benessere. Con il cinema succede spesso quello che succede con la musica, cioè tu non hai semplicemente un'esperienza di flusso, di ascolto, ma hai una vera e propria esperienza di immersione. Ci entri dentro e ti senti dentro a quella storia, a quella musica, a quel personaggio, stanno proprio parlando di te e lo vedi agire magari in modo completamente diverso da quello che faresti tu nella vita. Rimane che poi, proprio come la musica, a volte la metti di sottofondo perché la giornata è troppo grigia, hai bisogno di quella coloritura e di quel sole, anche il cinema fa la stessa cosa. Tu puoi proprio mettere quel DVD, se vuoi somministrarti una terapia non farmacologica, ma una terapia quasi emotiva che ti tiri fuori, per esempio, dal grigio che ti circonda. E tra l'altro, proprio nella guida che dici tu, la guida al benessere che hai appena pubblicato, abbiamo fatto una classifica dei film che ti fanno ridere di più, che ti permettono di uscire, per esempio, dal grigio di oggi. Non so se Malika sa, in assoluto, scelta da una commissione di psicologi, qual è la pellicola più cineterapeutica in assoluto in termini di comicità, ed è A qualcuno piace caldo, no? Certo. Ha fatto quell'effetto su di te quando l'hai visto? Sì, poi l'ho fatto vedere anche la mia bambina, che è una grande fan della Monroe, e vince in assoluto A qualcuno piace caldo. E come secondo abbiamo Tuzzi, e poi per esempio in classifica ci sono film molto molto diversi, c'è per esempio... Per me Hollywood Party. Quello è in assoluto, sì, il tuo film. Io quando sono giù mi chiudo gli occhi, rivedo alcune scene e mi viene già, le riesco proprio a collegare, e quindi mi viene proprio un percorso di cineterapia, di quel film terapia che mi tira su assolutamente il morale. E qua potremmo dire ai nostri ascoltatori che chissà quanti ne hanno loro, che dire dell'aereo più pazzo del mondo? 800 24 00 24, se volete suggerire la vostra idea di ricreazione ideale per restituire immediato benessere. Avete anche la possibilità di parlare con la nostra regina della ricreazione, Malika Jan, che è qui in studio con noi fino alle ore 12, e di ricevere a casa autografato il suo CD Ricreazione, che ha una copertina tra l'altro bellissima, Alberto, e di cui racconteremo più avanti perché è piena di sorprese. Tutto il mondo di Malika è stato concentrato in un'immagine, ma non c'è solo il mondo, c'è molto di più. Allora, teniamo il sottofondo quest'idea del cinema, delle emozioni. Parleremo naturalmente di questa copertina, che è una copertina molto originale, che racconta molto anche del personaggio, ma anche di quello che Malika sta proponendo, della sua nuova versione, proprio perché abbiamo rivalutato un po', no? Il passato, l'abbiamo rielaborato, un percorso che ciascuno di noi fa. tu citavi le storie d'amore, si fa nelle storie d'amore, si fa anche nella quotidianità. Potremmo chiedere a Malika se quando ti muovi adesso per parlare del tuo nuovo progetto, quest'idea di ricreazione ti viene restituita anche dall'esterno, ti dicono: ma tu sei una nuova Malika? Sì, un po' sì. Cioè, allora, a parte allora, ci sono due scuole di pensiero. Sì. La prima è quella del sorriso costante, che credo che sia dovuto alla liberazione dopo un anno di studio, di registrazione soprattutto, e l'altra, che io ho difficoltà un po' a spiegarmi, sì, è l'ossessione per il cambio di colore dei capelli. Che, ecco, che una volta che non mi viene chiesta la tiro io, è divertente. Allora racconta. No, cioè, è che ho notato che nel numero di domande, cioè insomma, facendo la classifica e il grafico di quante volte mi è stato chiesto cosa, a parte comunque io sono molto soddisfatta, una bellissima delle bellissime reazioni rispetto al contenuto del disco, che è la cosa più importante, però la seconda domanda più frequente è stata: ma il biondo è perché hai fatto grandi cambiamenti nella vita? E quindi, ecco, mi chiedo, dottore, come mai non me l'avete chiesto? No, come mai? Cioè, un cambiamento, cioè, come posso dire, che cosa rende un cambiamento estetico? Ecco, va bene, mi mostra le copertine del primo e del terzo disco. Che oggettivamente capisco, credo che un po' di curiosità. Se noi compariamo, no? Anche Nicoletta, abbiamo proprio qua la copertina del suo primo CD e quella dell'ultimo, poi ce l'abbiamo qua dal vivo. Effettivamente c'è un mondo in mezzo. Abbiamo ci sono come 5 anni di vita, ok, insomma. 5 anni che probabilmente poi nella vita normale di una persona normale sono 5 anni, per te probabilmente sono proprio stati tempo di ricreazione, di allora vediamo se i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici hanno dei suggerimenti di ricreazione, sì, e vogliono anche segnare, no, questa ricreazione. Proprio noi donne spesso quando ci sentiamo mature per un cambiamento lo esterniamo, magari proprio colorandoci i capelli. Tra l'altro questo biondo ti sta benissimo. Maria Teresa dalla provincia di Milano, buongiorno. Ricreiamoci. Eccoci. Io li ascoltavo e io devo dire che per me ricrearmi è ascoltare musica a seconda dello stato d'animo, poi per quello per cui io mi devo ricreare, che può essere, io essendo ormai un'adulta, non so, riascoltare il nostro concerto di Bindi, oppure passare a Eric Clapton e Simply Red, oppure altri momenti invece mi riesco a ricaricare attraverso Pollini, sentendo i suoi concerti, i notturni, per esempio. Queste sono le tre cose che proprio mi ricreano. Seconda, però, io mi rendo conto, quando vado a cercare un CD, lo stato d'animo del momento. Alberto, ma io direi proprio che in generale così è l'arte, cioè l'arte è rispecchiamento, a volte l'arte è proprio una guida che ci porta in un percorso che ci fa allontanare da cose che vogliamo lasciarci alle spalle. In generale non può essere che c'è una musica giusta che va bene per ogni momento, proprio perché anche le persone che abbiamo vicino, non c'è mai la persona giusta che va bene per tutti i momenti, a seconda di come ti senti hai bisogno di sentire un amico invece che un altro. Però io vorrei essere sempre l'amico che vuoi scegliere, quello preferito. La tua cosa fai quando vuoi ricaricarti con la musica? Che musica ascolti? Dipende. Allora, io ho notato che anche col cinema, rispetto a quello che si diceva prima, la terapia non necessariamente deve essere contrastante, nel senso, se sono giù non sempre ho bisogno di ridere, anzi vado algebricamente a sommare un'altra, insomma, qualche storia toccante, o in qualche modo vado ad annientare il mio sentimento di disagio sovrapponendone un altro, e per cui se devo ricaricarmi e sono in modalità camminata veloce, cerco di trovare della musica, magari tornando a fare ricerca sulla Black Exploitation, quindi che ne so, Curtis Mayfield, segnate. I Temptation anche, no? Insomma, o Stevie Wonder, che peraltro insomma, è geniale, quindi serve anche a stimolare la voglia di suonare sempre meglio. E ecco, mentre quando invece sono appunto più triste vado a cercare il cantautorato, quello più complesso, quello di nuova generazione. Mi piace Mark Lanegan quando proprio è una giornata come oggi, che vedo le foglie, sì, muoversi così impetuosamente, cioè serve un uomo con una voce molto profonda, o una donna maligna, cioè è Blue di Joni Mitchell il disco per eccellenza, oppure Cohen. Era proprio così che sognavo la cover di Ricreazione. Un'immagine che avesse il sapore dei film della commedia all'italiana, l'ironia della vecchia fattoria e i colori di Renoir nella colazione dei canottieri. Un quadro in cui fossi in compagnia di mio marito e di tanti amici. Tanta gente intorno a un tavolo, proprio come è stato durante la lavorazione di questo disco. Alle 9 del mattino già decine di persone sgambettavano in mutande in attesa dei costumi. La mia violoncellista, Giulia Monti, mi ha fatto da coordinatrice delle comparse. C'era gente del forum arrivata fin dalla Sicilia, che ringrazio di cuore. Un bellissimo momento di condivisione con gli amici, le persone che mi vogliono bene e i fan, che sento così vicini da non riuscire quasi a pronunciare la parola fan. Ho insistito perché credo nella bellezza dei dischi. Da ragazzina spendevo tutti i miei risparmi attratta da copertine come Sgt. Pepper's. Siamo tornati insieme, quella che avete appena ascoltato è la storia della copertina del CD di Malika, una copertina piena di gente e di amici, viene voglia di sedersi. La prossima volta vi chiamo e... Noi veniamo come comparte, in fondo, sì, sì. In fondo. No, anzi, a un certo punto è arrivata Caterina Caselli che ho tormentato e si è trovata lì in pole position con cane bassotto in grembo e insomma non c'è stato scampo, chiunque è arrivato si è trovato un cappello. Anche Daniela Santocchi, che è la coordinatrice del management, a un certo punto l'abbiamo travestita da Diane Keaton, messa sotto una scala col cappello e 8... Ecco, è un incontro, una ricreazione e sembra un quadro, questo, la copertina del CD di Malika, ma soprattutto si nota che tu ami circondarti da persone con cui ti diverti e con cui ti piace lavorare con serietà, ma anche, no, evidenziando il lato dell'amicizia, della condivisione, della complicità. Ma io penso, sono una di quelle persone che vive abbastanza per lavorare, nel senso che amo tantissimo quello che faccio e riuscire a farne un lavoro è una grandissima fortuna. Passando più tempo con le persone con cui lavoro, che quasi con gli amici che esistono anche da prima dell'inizio della carriera discografica, diventa fondamentale riuscire a stare bene, a gioire di questa comunione, perché in fondo suonare non è diverso, cioè un'alchimia sentimentale deve esserci, della bellezza, altrimenti viene male tutto. Senti, voglio leggerti. Tommaso da Parma ci scrive: le canzoni di Malika sono come il pocket coffee, ti danno una dolce carica che ti consente di affrontare con stimolo la quotidianità. Complimenti, vai avanti così, compreso il biondo dei capelli. Oh, grazie, a Tommaso piaci bionda. Alberto. Sì, e direi che proprio parlando di ricreazione, c'è una canzone che è la ricreazione del suo CD, che separa la parte prima dalla parte seconda e che è un oggetto prezioso che lei ha scoperto in uno scrigno del tesoro dentro agli archivi musicali. Proviamo un po' a sentirla. The bearer's cheek is plumper, the rose is out of tone, the maple wears a gay scarf, the field is scarlet gold. Last I should be old fashioned, I bet a trinket. Alberto, hai voluto a tutti i costi farci ascoltare questa canzone. Secondo me arriva come una freccia al centro del cuore, l'ascolti. È vero. E ha una storia bellissima, perché... Sì, questo è un brano che nasce da un feticcio, nel senso che Sergio Endrigo un giorno... Il grande Sergio, esatto, Endrigo. Un giorno io decise... aggiungo sempre questo aggettivo. No, lui è meraviglioso. Ha musicato le sue poesie preferite, tra cui c'è questa di Emily Dickinson. Io l'ho trovata e me ne sono impossessata prepotentemente perché è bellissima. Sì. E quindi, proprio rispetto a quello che dicevamo prima, che è fondamentale essere sentimentalmente allineati con le persone con cui lavori, siamo andati in una stanzetta e abbiamo giocato al salotto del 1800, per cui abbiamo suonato insieme ed è venuta fuori questa perla che sì, è stata emozionante. Senti nella proprio pancia, sono... vero? Arriva, sì, sì, arriva sì. Proprio dritta alla pancia. A proposito di pancia, se c'è una cosa che spesso facciamo durante la ricreazione è riempire quel piccolo buchino nello stomaco. Cerchiamo di mettere a tacere quel languorino che non ci dà pace e che, se non lo stiamo ad ascoltare, rischia di diventare una voragine. Per questo abbiamo chiesto aiuto al dottor Attilio Speciani. Buongiorno dottor Speciani, bentornato. Ah, buongiorno, buongiorno a tutti voi. Specialista in allergologia e immunologia clinica, molto conosciuto anche dalle ascoltatrici di Essere Benessere, a cui dà sempre delle dritte importanti. Dottor Speciani, languorino, io so già che lei ci farà tirare fuori le due noci. Assolutamente, certo. Ecco, le due noci non possiamo, cioè, adesso io le ho portate, ne ho in borsa, ne darò subito due appena finiamo la diretta a Malika, perché le aspettano sicuramente delle giornate intense. Dottor Speciani. Ma infatti, direi fantastico, le noci, le mandorle, le nocciole, direi che i semi oleosi sono fantastici per questo languorino, in modo da bilanciare correttamente sia le proteine che i carboidrati che ci servono. E direi una cosa però, che quando c'è questo vuoto però a metà mattina, va fatta una riflessione. Intanto va compensato, altrimenti giusto, come si diceva prima, diventa una voragine. Sì. Però bisogna anche fare una riflessione su com'è la prima colazione, no? Quindi sul creare una sufficiente supporto, dei segnali di ricchezza all'organismo che gli vanno dati fin dal mattino, in modo tale da non avere questi vuoti totali. Cosa hai mangiato perché... a colazione, Malika? Sentiamo... Le fette biscottate con il miele. E basta? Ecco. Mancano le noci. Mancano le noci. E manca, cosa manca alla colazione di Malika? Mancano delle proteine, assolutamente, quindi lei ha un immediato benessere perché ha subito una puntata di zuccheri, per cui per 20 minuti, mezz'ora si sente a posto, dopodiché ha un vuoto ed ecco che compare una situazione che l'organismo sente come una sorta di ansia, di necessità di riempire. No? Alberto, presto, le noci per Malika, invece che dai, i sali. Immediatamente. Quindi rinforzare un po' la prima colazione, soprattutto perché adesso aggiungendo dottor Speciani. Ma dai, io dire, si possono aggiungere mezzo uovo sodo, si può aggiungere un po' di salmone affumicato, si possono aggiungere come in Spagna delle frittate fatte al forno, possibilmente mischiate anche con qualche patata, cioè, capito, ci sono un mucchio di proteine che possiamo utilizzare. Non chiedo di fare come gli olandesi che mangiano il pesce crudo, perché sennò la gente cade per terra e sviene, però abbiamo nella nostra tradizione la possibilità di utilizzare, e poi soprattutto pane integrale che c'ha già dentro il 14% di proteine. Per la gente qui vive tutta di roba raffinata e poi dopo si lamenta se gli viene la cellulite e viene durante il giorno dalla stanchezza. Dai, pane integrale, noci, nocciole, mandorle, uova sode, ci abbiamo un mucchio di cose positive e buone per rendere la giornata una giornata in cui poi vengono fuori delle cose meravigliose come quelle che Malika ci canta. Oh, grazie dottore. Dottore, da Londra il dottor Speciani. Grazie dottore, torni presto. Senz'altro, buona giornata a tutti voi, buona giornata. Andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade, ma qui in studio, che sta osservando, devo dire con grande ammirazione, la nostra Malika, è tornata la dottoressa Riccarda Serri. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. La nostra dermatologa per amica. Il colore di questa voce è un arancione scuro che sa di spezia amara e rara. Beh, non è da tutti, ricevere un complimento di questo tipo, e soprattutto da chi? Da Paolo Conte. Che ti ha segnato, positivamente segnato. Sì. Lui è, se fossimo una squadra di football, è il mio quarterback, nel senso che Paolo Conte è stato... il primo no, perché la prima è stata in assoluto Caterina Caselli mettendomi sotto contratto, però è stato il primo dei saggi che mi hanno presa per mano e accompagnata in questo arzigogolato mondo fatto di musicisti e altre cose. E Paolo scrisse la prima canzone per me per il primo album e da lì insomma mi sono appiccicata tipo studente molesto, quello che fa un milione di domande e quindi non si libererà più della mia presenza, tanto che anche in questo album insomma ci ha tenuto ad essere presente e regalandomi un brano che per un'altra volta, e soprattutto anche la possibilità di lavorare con lui e quindi vedere come si rapporta con i suoi musicisti e imparare tantissime cose. Abbiamo Viviana che ci chiama da Roma, 800 24 00 24. Aspettiamo i vostri suggerimenti per una ricreazione all'insegna del benessere. Viviana, buongiorno. Buongiorno Nicoletta. Buongiorno a lei Viviana, eccoci. Buongiorno. Buongiorno Marika. Buongiorno. Marika? Malika. Malika. Ah, scusa Malika, no, perché ho un rientro cellulare. Sì, Viviana, vuole magari la richiamiamo? Sì, la richiamano dalla regia, Viviana, perché non sentiamo bene la sua voce. La richiamano subito. Luciana da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti. È un piacere sentirvi perché, insomma, vi tenete compagnia con Radio 24 in generale, ma voi in particolare amo tantissimo la vostra trasmissione. Un saluto affettuosissimo anche a Malika. Oh, grazie, quello buongiorno. Che io normalmente faccio per riuscire a rilassarmi e, insomma, ritagliarmi un attimo di pausa è leggere. Lei. A me rilassa tantissimo. Io mi prendo un libro, mi isolo. Chiedo a mio marito gentilmente di non disturbarmi. Gentilmente? Ecco, è quel gentilmente che ha aggiunto Luciana, su cui non metterei proprio la mano. Sto leggendo! Ecco. Sì, assolutamente è una cosa che mi rilassa tantissimo. Invece, stando su qualcosa di un po' più ricercato, che insomma richiede anche l'intervento di qualcuno dall'esterno, mi faccio fare un trattamento shiatsu. Io ho fatto 3 anni di shiatsu professionale e mi faccio trattare dal mio maestro, che è una persona eccezionale. Quindi, lettura e shiatsu. Segniamoci il consiglio di Luciana, magari ti può venire utile per questa grande tour che partirà il 5 novembre da Verona. Poi sarai nella mia città, Torino, il 10, e poi a Genova, e poi finalmente anche a Milano, in 2 date. Sì, la prima... Due location assolutamente diverse, Arcimboldi e Blue Note. Esatto, proprio per il 3 dicembre gli Arcimboldi per poter giocare col teatro, che secondo me è ancora il posto migliore dove presentare musica, e poi il Blue Note per concludere in bellezza questa tournée, quindi godersela intimamente. Dottoressa Serri, in bellezza lo è già. In bellezza lo è già, la vedo solare, bella, una pelle straordinaria, uno sguardo luminoso, la osservavo anche prima quando ero dall'altra parte e non posso che farle i complimenti, perché è una bellissima ragazza che sprizza proprio energia. Grazie, sono quelle talento, cose che lunedì quel talento, mi faccia fare anche un po' la parte del un po' la strega nocciola. È nata anche così a fortuna, cioè lei, certo, mantiene, lei ha una qualità di pelle di serie A. Bisogna dirlo, sì, esatto, rispetto a certe pelli nordiche, esempio la mia, che è una pelle neanche di serie C, è proprio non è neanche in serie. Lei ha proprio una serie A lusso, perché produce melanina quando serve, si abbronza bene, è levigata, è compatta, luminosa. È luminosa e sembra anche vellutata, perché cosa fai per dici il tuo segreto? Qualcosa, sei nata così, con una pelle perfetta, ma faccio una pulizia del viso al mese solo con il vapore, e non so quanto faccia bene, perché ci sono opinioni contrastanti anche su questo. Ognuno deve vedere la sua pelle e agire sulla sua pelle, non ci sono regole universali. Esatto, quindi ogni tanto una maschera, queste cose. E poi soprattutto un bagno di vapore appena possibile, cioè mi sono data l'obbligo di andare una volta alla settimana, anche perché soprattutto nei periodi di grandi promozioni, quindi usando tanto il trucco, bisogna farla respirare. Quindi un po' nell'hammam? Nell'hammam soprattutto, sì. Ma dove sì, va? Io vado alle... non si può dire, dottoressa? Non si può dire? No, dove capita? A Milano? A Milano oppure cioè, cerco di scegliere alberghi che hanno questo tipo di struttura. Invece nel quotidiano io so che usi un po' dei suggerimenti della nonna, e la dottoressa Serri tante volte in trasmissione ci dice: ritornate un po' all'utilizzo di tecniche, pratiche, dottoressa sì, Serri, assolutamente naturali. Bisogna rivedere l'antico, però rivisto con le conoscenze di oggi, quindi detergersi bene, utilizzare strumentini meccanici. Una volta si usavano gli asciugamanini, gli straccettini, oggi sono diventati dei pannetti di microfibra, delle spazzoline. In America vanno molto anche le spazzoline a ultrasuoni. Queste fanno molto bene. In più vedo che Malika ha proprio la pelle parlante, perché come si è un po' schiarita i capelli, ha dei bellissimi tatuaggi, ha proprio una pelle molto eloquente. Che allora parla, come fai a mantenere una pelle così? Beh, intanto ringrazio la natura tutti i giorni e poi ogni volta che vado in Marocco mi riempio di sapone nero, straccetti abrasivi e basta, poi latte detergente sul viso e olio di argan, immagino. Sì, anche, e olio, olio di argan. La ricetta, ecco, della bellezza di Malika, che è stata con noi oggi a Essere Benessere insieme ad Alberto Pellai e alla dottoressa Serri a fare un po' di ricreazione, il titolo del suo nuovo CD. Potete scaricare la puntata, seguirci su Facebook. Alberto, ma direi che ci siamo rigenerati e tra le altre cose teniamo il consiglio di Luciana, lettura e sciazzo, a cui mandiamo il CD di Malika. Grazie a tutti, grazie a voi, appuntamento a domani.